Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Minchia come mi annoio senza zanzara. Ma quando tornate cornuti lunedì 4 settembre? A sta minchia come mi annoio, minchia. Eppure è vero che per non annoiarmi basta che penso sticchio e già mi passano tutte cose, però comunque mi manca zanzara. A zanzara, viva zanzara, viva lo sticchio, siamo al top, Peppe. Oh, ancora siete in ferie, ma siete due teste di minchia. Voi non andate in ferie, la gente è qua che muore. Che cazzo venne fotta proprio uno cazzo dalla gente buona. Astruzzi, quando ricominciate? Ma quando tornate, cazzo? Allora Gaglioffi, oggi si ricomincia, non me ne frega niente, nulla, zero, vi voglio carichi! Lorenzo! È una roba pazzesca! Caro David, sai cos'è la cosa fondamentale alla fine? Sono già allibito. La cosa... Perché nulla è cambiato. L'eloquio utilizzato in questa pre-copertina dimostra che nulla è cambiato, anzi tutto è peggiorato, perché accostare l'inizio di una trasmissione allo sticchio, ad esempio anche questo, in un contesto normale uno inorridirebbe, no? Se a me dicessero, in onda, lo sticchio, ma dice, ma che cosa sto dicendo? Scusi professore, lo sticchio. Ecco, allora io mi chiedo come è possibile che una grande azienda come Radio 24 eccetera come dire sia felice del fatto che venga accostato il nome, che dico, sono io il pazzo, mi sembra io matto, il nome allo sticchio, e questo, però io non mi capacito, capisci, non mi capacito, però andiamo avanti, però mi pare che l'eloquio ecco, con il quale hai aperto questo nuovo, chiamiamolo così, anno, perché l'anno per noi inizia oggi sostanzialmente, la nuova stagione, mi pare sia partita col piede sbagliato, ecco qua, tutto qua. Dire ragazzi, io voglio solo dirvi una cosa, sì. Ci stavate aspettando in molti, ma lo sapete alla fine, in due parole, che cos'è la cosa fondamentale di una trasmissione radiofonica, sì. Cioè cosa è in fondo, nonostante tutte le chiacchiere, le nuove trasmissioni che iniziano, di cui non ce ne frega un cazzo, eccetera. Nulla, non c'è, alla fine, in fondo, nel nostro cuore, dentro, sì. Dobbiamo dire la verità, non ce ne frega un cazzo, l'unica cosa che ci piace è questo profumo enorme di libertà che si assapora in questo luogo e che rappresenta l'unica ragione di vita, alla fine, l'unica ragione. Beh, adesso io non esagererei, no, l'unica ragione, l'unica, una delle ragioni di vita, diciamo, una delle ragioni di vita è questo sapore incredibile di libertà. Questo profumo, letto, questo tu chiamala puzza come vuoi, profumo di libertà che viene fuori dalle 18:30 alle 21, è l'unica cosa che conta, è la cosa che viene fuori, è l'unica cosa che ci fa vivere, è l'unica cosa che ci fa gioire, è l'unica cosa che ci dà un senso alle giornate, Detto questo, mi voglio occupare per un attimo del signor Butungu. Beh, amico mio, questo è un fenomeno, devo dire un fenomeno, cioè un fenomeno, è uno degli stupratori almeno credo, perché alla fine stanno negando tutti, stanno dicendo no, è colpa dell'altro. Vabbè, io mi sono addormentato, sono ubriaco, io mi sono addormentato. I giovani marocchini minorenni dicono che è colpa dei maggiorenni, naturalmente si sono costituiti, c'è il padre che ne dice di tutti i colori. Alla fine la cosa è incredibile, perché questo paese è irrecuperabile? Di questa famiglia di marocchini nessuno doveva essere in Italia. Erano stati espulsi, sono tornati e alla fine stavano per essere mandati via dal sindaco, non so attraverso quali magheggi. No, il tribunale è molto semplice, il tribunale dei minori, non c'è nessun magheggio. Ragazzi, il tribunale dei fine... minori ha deciso all'epoca che fosse più giusto che loro rimanessero sì, in Italia, va bene, d'accordo, piuttosto che all'estero dove c'era il padre in carcere. Cioè questo, allora, è il tribunale ragazzi, dei minori, prova a titolare, sì, a tutelare i diritti dei ma minori. Ma va bene, tu ti attacchi a queste cose qua. La realtà è molto semplice, ridotta all'osso, qual è? Questi stupratori marocchini non dovevano essere in Italia. Alla fine sono rimasti in Italia e hanno stuprato quella ragazza polacca, hanno picchiato il fidanzato. Ma la realtà alla fine nuda e cruda qual è? Allora, comunque mi voglio occupare di questo Butungu. Il quale Butungu si presentava su internet con la giacca, con la cravatta, con una persona normale, tutti dicevano come tanti altri, come tanti altri, per carità, eccetera. Alla fine ti farò la domanda, anche, però anche vera. Mauro da Mantova, che adesso fa il metro a palsè delle trasmissioni televisive in Veneto, va da ospite come fosse un Galli della loggia qualunque, anche di questo dovremmo parlare a un certo punto. Perché di questo dovremmo parlare, che il signor Mauro da Mantova viene invitato come opinionista in trasmissione. Se tu lo vedi in una foto, lo vedi tutto brutto, orribile, ma lo stai paragonando a uno stupratore? No, ma per dire che ognuno nel proprio profilo può mettere quello che gli pare, no? Di foto, dici, poi l'ho spostato, poi invece l'ho spostato. Dici. No, invece è naturale per uno spostato assoluto. Comunque andiamo avanti. Come Butungu a un certo punto in un video dice siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli. No, ma è bellissimo, siamo tutti fratelli, intanto stupra la polacca, dai. Ma che c'entra? Vabbè, ho capito, è un matto, è un pazzo, un criminale, che c'entra? Poi ti farò la domanda, ma secondo te gli immigrati stuperano di più rispetto agli italiani? Ecco. No, non stuperano di più. Beh, i dati un po' quello dicono. Dalla volta l'altro metteresti il punto esclamativo anche. Ecco i dati, due punti. I migranti stuprano. E quali dati? Quali migranti? Cosa dite? Butungu. Noi tutti siamo insieme, noi tutti sono di fratello, noi tutti sono uguali, sono così. Io sono tuo fratello, io saluto tutti i miei fratelli paesani, io saluto a par di mio Gherlini. Bella questa, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Vabbè, sembrava un po' parenziano in questa cosa qua. Ma che parenziano, mica parenziano, quello lì è un pazzo, un criminale, basta. Allora, che c'è? Il padre dei due fratelli minorenni marocchini dice: i miei figli erano ubriachi, io sono agli arresti domiciliari. Pure domiciliario il padre, capito? Sicuramente non è una famiglia di persone che hanno fatto la normale. Dai, non dovevano essere in Italia. Quella sera hanno bevuti, io non so cosa hanno fatto, sono andati con quel ragazzo lì, mi trovati lì, anche non lo so, vanno altri giorni, e lì devo finita lì, perché io ce l'ho problemi, perché se vengo la polizia non troveremo fuori, cioè vorrei domiciliare. Sono caduti in trappola, ma quale trappola, ragazzi? Ma non è che se uno ha 17 anni, a 17 anni può essere molto più criminale di uno che ce n'ha 25, 26, cioè qui... La minore età purtroppo, cioè questi al massimo dicono che possono fare 2 anni questi minorenni, capito? Possono fare 2 anni di galera. Ma adesso questo vediamo. Possono questo fare due. Tu sei criminale. D'accordo con questa cosa che possono fare no, al massimo 2 anni? Non sono niente, ma assolutamente. Ma uno come che no? Ha commesso un reato simile deve uno che ha commesso un reato anche minorenne, simile anche minorenne condannato. Ma minorenne avrà i percorsi previsti dalla legge. Cosa c'entra? Appunto, quello? Ti dico che secondo la legge potrebbero fare anche solo due anni potrebbero fare. Ma dipende, vengono messi in strutture adatte per il recupero. Strutture. No, adatte per il recupero. Strutture adatte per il recupero. Vabbè, sentiamo ancora il padre. Sono caduti in trappola, sono fatti queste cose. Sono ragazzi nati in Italia, io li dico sempre. Sono cresciuti qui, con la scuola, con il calcio. Non sono branco, non sono cresciuti nella giungla. Vabbè, sempre questo padre che si chiama il padre di questi marocchini, si chiama Mohamed, hanno aggredito, non so, adesso sentiamo ancora, tanto dice tutte cose sconclusionate. Signor Mohamed, Ma i vostri figli vi hanno detto di aver partecipato alla violenza oppure no? Sì, erano presi per soldi o tirati qualcosa del genere. La violenza sessuale? Sì, no, da quella lì non ho toccato niente. non ha toccato niente, toccato tutti i reperti della che hanno preso la polizia, eccetera. Cioè, non è che questi qua sono stati violentati, quella è stata violentata. Questi ma negano. Ma c'è dubbio su questo. La Santanchè, dice che gli stranieri stuprano 4 volte più degli italiani. Sentiamo. Il calcolo lo dobbiamo fare sulla popolazione residente e se facciamo questo calcolo vediamo che gli stranieri hanno la probabilità di commettere reati sessuali 4 volte più degli italiani. Allora, un sindaco leghista che si chiama Camiciottoli, primo cittadino di Pontinvrea, entroterra di Savona, caro Parenzo, quello che a un certo punto, non so se ti ricordi, voleva mettere la tassa di soggiorno agli immigrati, la tassa di soggiorno ai migranti, ha scritto queste cose su Facebook. Potremmo dargli, con la foto credo di Butungu, di questo congolese, no? Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini. Magari gli mette il sorriso. Che ne pensate? Pazzesco. Signor Matteo... Camiciottoli, il capo degli stupratori a casa della Boldrini. Ora ragazzi, voi sapete che noi, almeno io in particolare, spesso non siamo d'accordo con le cose che dice la Boldrini, ma in un confronto democratico assolutamente normale, legittimo, in un confronto democratico che può avere anche delle asprezze, non mettete in campo queste cose che riguardano la violenza, perché se è una follia quella che ha scritto questo. Ma io mi auguro che lo faccia dimettere Salvini, questo signore qua, questo cosiddetto sindaco. Ma è una cosa, è una barbarie, è di una vergogna assoluta. Non bastano le scuse. Chiamalo, non ripeto, bastano il capo degli stupratori a casa della Boldrini. No, ma è una cosa. Il capo degli stupratori a casa della Boldrini sostiene. Chiudi. Perché devo chiudere? Proprio adesso lo dobbiamo perché chiamare. Devi dare un segnale forte. Ma che segnale di cosa? Perché devo chiudere? Un segnale forte. A casa cazzo c'entra? Ogni tanto devi dare l'esempio, devi dare un segnale forte, chiudi per protesta. Ma protesta di cosa? Libero tutti, sarebbe una cosa molto forte, fidati di me, chiudi tutto, chiudi, lei la prima puntata, tutti gli hanno scoperto, ci sono tornati, no, mi invio e chiudo la trasmissione. Ma perché? Come ha fatto l'animo che se n'è andato lì da quella vostra parte, mi ha preso e andato via, mi sono rotto i coglioni, vado a cena, dai, dato, avete stufato, e se ne va, bellissimo, vattene anche tu, chiudi, fai un gesto nobile, uno, chiudi tutto, tutti lì in attesa, centralini, Radio 24, finito, basta, razzismo, chiuso il razzismo, ma messo un cartello a Radio 24 dalle 18:30 alle 21. David, dimmi, potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, eh. La Zanzara. Cazzo, riaprite! Recchioni! Amore, oggi comincia la Zanzara dopo un mese e mezzo, che ne pensi? Che due cazzi. Allora ragazzi, abbiamo citato prima il signor Raimo, Cristian Raimo, caro Parenzo. Ottimo, è stato, devo dire la verità, un idolo assoluto. Questo Cristian Raimo, io probabilmente non sono d'accordo con nessuna delle cose che dice, però è andato nella trasmissione di Belpietro, dalla vostra parte, e ha fatto quello che molti non hanno il coraggio di fare. E ha spaccato il giocattolo. Cioè ha detto, ragazzi, voi fate servizi in cui raffigurate e dite che gli islamici sono tutti delle merde, gli immigrati commettono un sacco di reati, eccetera, eccetera. Ora, vero o no che sia, è la politica di dalla vostra parte. Solo che quelli di sinistra vanno in quella trasmissione lì, pensano le stesse cose e non hanno il coraggio di dirle. Il signor Raimo, ha avuto i coglioni, poi ha sbagliato ad andarsene, secondo me, invece doveva rimanere. Signor Raimo... sentite che cosa ha detto qualche giorno fa. Ho capito, stai fate una televisione razzista e razzista, islamofoba, così perché, è più perché chiaro. Parliamo del fatto che sono stati, c'è una polemica, due giornali si sono occupati oggi di questa faccenda, infatti, rispetto a questa polemica, dicendo come mai non si parla di questo, di aprire la trasmissione dopo una vacanza facendo un quarto d'ora di servizi su islamici tra virgolette, perché cioè, non, c'è, che non è successo niente a Barcellona, violenta, eccetera, beh. Quindi l'hai detto, continua a dirlo. Ma di che Raimo sta preparando un altro cartellone? Ma sì, guarda, lo vedo scrivere. A cena e al lavoro, No, sto preparando un altro cartellone. C'avete un altro servizio sui negri cattivi? Non ce n'è un altro, c'è un altro servizio che dovete fare, lo volete dire un'altra volta? I neri in Italia sono i peggio. I oggi hanno trovato 600 peggio. Immobili. Guarda, però per qualcuno stuprano, occupano le case abusivi, pisciano per terra, non se lavano, sono i peggio. Mi sembra una meravigliosa trasmissione. No, no, ma guarda, 130. non solo occupano le case, ma vanno, vanno con i furgoni contro i nostri ragazzi e ne uccidono a decina alla volta. Allora, ne hanno parlato tutti, caro Parenzo, però vogliamo dire due parole anche noi su questo meraviglioso spot che è stato criticato da alcune associazioni, da alcune donne su internet, lo spot del Bondì Motta. Cioè, mi pare una cosa geniale, straordinaria. Allora, è uno spot geniale, già una volta abbiamo detto che era geniale pure lo spot, quello del panettone, ti ricordi? Del panettone con i prodotti tradizionali, panettone anti-vegan, diciamo, della Motta. Ma io sono direttamente interessato, te lo dico perché? Perché mio padre ha lavorato per la Motta un sacco di anni. Ha fatto il venditore, l'ispettore, faceva un lavoro umile, popolare, girava con la macchina dalla mattina alla sera. Girava con la macchina dalla mattina alla sera come un pazzo, dal lunedì al venerdì lasciando la famiglia. No, non c'è dubbio. È così. E lavorava per la Motta, dunque è un'azienda che mi sta sempre abbastanza, cioè ce l'ho nel mio cuore. E i signori della Motta vengono attaccati da pseudo associazioni di telespettatori cattolici. Allora io dico, ma come, con quale motivo? Non ma soprattutto perché esistono telespettatori cattolici? C'è un'associazione di telespettatori. Anche questo è interessante. Ma perché, come se tu facessi un'associazione di telespettatori ebraici. Sì. Ma che posso cazzo vuoi? Ma sì, ho capito, ma non avrebbe un po' di finanziamento, posso costituirla immediatamente. Ma non avrebbe senso. Chiedo anche allora, il finanziamento pubblico, l'associazione dei telespettatori cattolici. Ma dovrebbe sciogliersi domani, ma poi di che cosa si preoccupano? No, della famiglia. L'Armageddon che arrivano, non capisco qual è il tema. Questa specie la di critica, qual è? La critica è che muore la madre davanti alla figlia, ma è una finzione, i bambini guardano i cartoni animati, imbecilli, cretini. Cioè avete fatto pubblicità alla Motta. Se il vostro obiettivo era andare contro questi qua che hanno fatto una pubblicità secondo voi contro la famiglia tradizionale, cosa ridicola, gli avete fatto un piacere alla Motta. Ma faceva ridere, siete patetici, siete soprattutto ignoranti, non sapete nulla di come funzionano queste cose di comunicazione. Probabilmente siete pagati dalla Motta, probabilmente vi daranno dei soldi adesso. Vabbè, non è vero, naturalmente, ma magari sotto banco gli hanno dato dei quattrini. Viva lo spot. Non esiste una colazione così cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Oh, Maurizio da Brescia, vai. Ciao. Dimmi, ciao, Maurizio, dimmi. Vai. Ciao Davide. Niente, stavo buonasera, appunto dicendo. Buonasera. Buonasera. Ma non ho tanta voglia di parlare con te perché sei il solito, cioè non sei cambiato, Sei non sempre mi pare il solito. Che sia assolutamente reciproco. Ma pianta la. Se ma che ha detto, scusa? Te, ma che ha detto? Alle tue figlie, dai, per favore. Ma che dai, c'entra? Fai bravo, Che fai c'entra? Parlare con Beppe, perché tu sempre prendi la tua linea. Chi non la pensa come te ma è non un è che ha detto ma non è che ma scusami così. Ma non okay, ha detto fammi parlare con niente. Beppe fammi io parlare queste, con Beppe queste bravissime Beppe. Persone anche io ho due figlie, se avessero fatto questo alle mie figlie come stavo dicendo a chi mi ha dato la possibilità di a centralino con sì con allora non lo so, guarda, mi sarei inventato l'impossibile per andarli a prendere. Li avrei presi, gli avrei tolto l'uccello, cazzo, e probabilmente gli avrei spaccato tutte le ossa, perché i violentatori e chi tocca i bambini. Ma piantala, Parenzo! Porca miseria, che non hai un callo sulle mani, stai ma scusa, zitto, ma che ha detto? Miseria. Ma che ha detto? Se non è che ha detto? Non è che è favorevole allo stupro di questi qua, scusa, sei incredibile. Cioè, non è che è favorevole allo stupro. Ho sentito quello che hai detto all'inizio, porca miseria, vale anche per gli italiani, a me non me ne frega un cazzo del colore della pelle. Ma sto che significa tecnicamente staccare l'uccello, però? Castigati di brutto. Ecco, ma vuol dire tecnicamente, volendo trasportare su un piano concreto questa tua frase, staccare l'uccello. Il piano concreto. Cosa vuol dire? Proprio staccare l'uccello come gli indiani nativi americani. americani scalpavano l'uomo bianco con tutto quello che gli hanno fatto, porca miseria. Aspetta, fermo. E con lo staccare l'uccello allo stupro di stupratore di Rimini darei la linea ai signori del giornale radio. Ecco, meglio sì. La Zanzara. Mortacci vostra, ora che tornate. La Zanzara. Siete una massa di pezzi di merda, dalle Alpi alla Sicilia. Da lì, dai, su, piscia. Dai, oh piscia. Oh piscia, da lì. Oh, certo che posso capire tutto, Librandi che passa al PD e voi non ci siete. Minacce contro Parenzo e voi non ci siete. Corona aggredito in casa e voi non ci siete. Ma che ora non mi piscia manco più il cane per causa vostra. O che deve fare uno da qui a un mese da questa parte? Amore, non mi interessa se sei incinta, stasera ricomincio la Zanzara. Ma va fangulo, tu e loro. Amore, per me va benissimo parlare al telefono, però una cosa, se mi puoi chiamare prima delle 18.30 perché dopo ho un impegno importante, allora mi chiami direttamente alle ore 21, va bene? Mi raccomando, perché non posso disdire, è un impegno importantissimo. Ciao Gioia, finiamo più tardi allora. Lo sai, caro Davide, che cosa ho scoperto durante questa lunga estate? Questa lunghissima estate? Ho scoperto una cosa. Ho scoperto che forse, beh sì, per me è molto lunga, naturalmente, mi sono annoiato moltissimo, tu meno, naturalmente, perché hai lavorato, diciamo la verità, hai lavorato. Molto, sì, sì, sì. E quelli che dicono Parenzo non lavora. No, beh, ecco, amici, qui miei, sbagliano. Qui sbagliano. Io ho vissuto in prima persona questo dramma assoluto di un lavoro che potrebbe essere anche equiparato a quello dei metalmeccanici, direi, no? Un lavoro che spezza la schiena. Lavoro di 12 mesi l'anno, con pochissime pause. Nel frattempo abbiamo appreso una cosa. Abbiamo appreso frattanto abbiamo appreso che il signor Capanna ha cominciato a usare la balestra. Mario! Un momento. Pronti? Sì. Ah, Mario, eccoci qui. Un momento. Mi inserisco nelle onde della cosiddetta Radio 24, che vedo ancora ha affidato una fascia oraria così delicata nella quale bisognerebbe parlare di lavoro, di occupazione, nel senso come occupare le fabbriche, sì. Ha affidato questa fascia oraria a due criminali ottocrati come voi. Molto bene. Allora, io in questi mesi, in accordo col famoso ufficio studi della Confindustria, come che d'accordo con chi? Anche un ufficio studi. Abbiamo stipulato che da oggi ci sarà un cosiddetto osservatorio sui cazzi. Vado immediatamente sui cazzi, scusa, che c'è? Sui cazzi. E come si evince nell'inizio di questa trasmissione, nelle ultime, nella prima mezz'ora sono volati ben 42 cazzi, cioè gente che al telefono ha usato questa espressione. Io nel corso di tutte le puntate da oggi in avanti monitorerò quanti cazzi volano all'interno di questa trasmissione e alla fine renderò il conto finale, cioè dirò in totale su due ore di trasmissione sono volati 2500 cazzi, ovviamente approssimato per difetto, mai per eccesso nel vostro caso, sempre per difetto. E allora? Questa è la cosa, la pena sarà quella di prendere questi che lanciano questi cazzi di trasmissione, identificarli uno a uno e poi scagliarli contro la cosiddetta balestra, quella che sto usando, che è un'arma pacifica, la balestra. Ma non è un'arma pacifica, manco per niente. Sono tardi, stupendi, molto violenti, meravigliosi, e verranno impiegati anche nelle occupazioni, ad esempio, per combattere i padroni, come nelle occupazioni, come nel Medioevo, bellissimo, nel Medioevo c'erano queste torri, le famose torri, no? E allora per dare l'assalto alle torri, come si faceva? Si cinghia ad assedio dall'intermine, allora bisogna trovare, tornare a cingere ad assedio il sole 24 ore e monitorare quello che lì dentro avviene. Questo sarà il mio compito di quest'anno, osservatorio sui cazzi. Vabbè. Allora, vi dicevo che ho durante questa lunghissima estate sono venuto a capo di una cosa, caro David. Ho scoperto che ho un piccolo problema di aerofagia. Cioè, ho capito che alla fine mi piace proprio, oltre... No, problema forse no, che mi piace moltissimo scorreggiare. Oh, ma perché devi fare questi proclami? No, ma è importante proclami? Questa cosa qua. Ma che interesse può avere? No, questo è importante. Schifoso proclama. No, ma è molto interessante. Ho capito. Ma perché una volta non dici a me piace che so leggere guerra e pace? Perché non dici ho una letto cosa un sacco di libri, però nello no, stesso ma tempo. Perché invece dice, a me piace, perché devi dire che ti piace la flora? Poi fa schifo, ma le persone che ti stanno vicino, ma quella bella ragazza che però ti segue, posso che dire, sta con te, sì, ma come ti fa posso ad dire amare uno ma che ti posso è? Dire una cosa, la scoreggia è una cosa fenomenale. C'è l'arte della schifo, l'arte della è... scoreggia è una è cosa fa no, ma che imbarazzante, è fantastica. È l'arte della scoreggia, da cui comunque vorrei guarire in ogni caso, però ma, finché ma non sì, guarisco da questa flatulenza il carbone, posso dirti, devi no, devo dire carbone, la verità, no, vorrei che chiamassero un po' di medici, perché va oltre il carbone, va oltre, è una cosa continua, è una cosa quasi come ma dire, pervicace. È la tua anima che esce, capito? Ma devo dirti la verità, l'aerofagia è una cosa straordinaria, cioè mi fa ma riconciliare mi fa non si può portare in giro, capisci? È bellissimo quando tu passi in un posto, lasci una scia meravigliosa, stupenda, lasci e poi te ne vai. E lì, ma c'è, dove vai? E lì ma, c'è il mistero. Ma chi è stato? Chi è stato? Se vedi ogni tanto da lontano. Ma saranno tutti a Sole 24. Chi è stato? Ci butta la casa, è stato Cruciani, è evidente. Ma lo pensassero pure, chi se ne frega. Ho un problema, l'aerofagia, the fart man, datemi una mano, vi prego. Gennaro da Caserta. Peppi, senti una cosa, Gennaro, evidentemente bevi troppo gassato, che ti devo dire? Poi se per esempio fai delle... praticamente semplicemente perché puzzano, vuol dire che c'è un problema dentro, ma se non puzzano è normale, sai, quando ne faccio pure io, però senza che debbono puzzare, altrimenti il problema ci sta. Vabbè, allora Gennaro andiamo oltre, dai, non mi hai detto niente di nuovo, vai. No, dico questa cosa qua, perché veramente stai un po' frascico all'interno se puzzano. Vabbè, allora fai schifo, allora... Allora devi vedere qualcosa, fatti una purga, una cosa. Va bene, Claudio da Bologna, vai, non mi dici niente no, di nuovo. Aspetta, Giuseppe. Aspetta un secondo, aspetta. No, pronto? Dovevo intervenire. Camiciottoli? Sì. Sono Cruciani, ciao. Ciao Cruciani. Senti Camiciottoli, ma è vero che hai scritto quella cosa là contro la Boldrini? Sì, allora io ho scritto che la Boldrini, ma a parte che era un post sulla mia pagina privata. E ma quello non c'entra nulla, lo sai, ormai. No, ma sì, lei purtroppo. Aspetta, dico, fammi spiegare. No, io aspetto pure. Sentiamo le spiegazioni di Camiciottoli, sì. Perché secondo me è scritto una cosa orribile, Camiciottoli. Diciamo sì, la no, ma letta nel senso sbagliato, senz'altro. Ma che vuol no, dire nel senso sbagliato? Hai detto bisogna mandare uno stupratore a casa della Boldrini, non è che significa più. Io penso che la terza carica dello Stato abbia una responsabilità importante in quello che sta succedendo. Ma in che cosa? Negli stupri? Negli stupri? No, assolutamente. E in che cosa? Nel continuare a incitare un'immigrazione. Ma questa è un'idea politica che uno può avere. Cioè, tu sì. Dici la Boldrini è una che ha invitato a favore dell'immigrazione, eccetera, esatto. Eccetera. Giusto? Esatto. Beh, quello che succede, secondo me, è responsabilità. Allora lì andiamo a parare. Tu dici che quello che succede tra queste cose che succedono, cioè, ci sono anche gli stupri, sono responsabilità della Boldrini anche. Secondo quello... me, in parte sì. Allora, parte la Boldrini, sì, perché... allora diciamola tutta. Camiciottoli dice, sindaco della Lega di un paese, che la Boldrini è una delle responsabili degli stupri. E quello hai detto. Continuando a far arrivare gente da tutto il Nord Africa, da tutti i paesi del mondo, in Italia, senza nessuno status, senza allora... niente, questo può comportare quello che è successo, quello a me è quello che preoccupa. Vabbè, però che domani potrebbe succedere a chiunque. Non adocciamo le parole, tu stai dicendo che la Boldrini a causa delle guarda, sue... Ho appena modificato il mio posto. No, ma noi restiamo col posto iniziale. Tu pensi che la Boldrini, per quello che pensa sull'immigrazione... Che le iniziative politiche della Boldrini comportino anche queste situazioni, sì. Della Boldrini benissimo. E di tutti quelli, quelli che giustificano un'immigrazione ora, incontrollata anche, nel nostro mettiamo paese. Mettiamo che questa cosa qui... Allora, cosa c'entra con la frase... potremmo dargli gli arresti domiciliari con la foto di quello di uno dei responsabili dello stupro di Rimini, potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari gli mette, tra l'altro c'è un errore qui grammaticale, magari gli mette il sorriso, che ne pensate? Le mette il sorriso. Che ne pensate? Lei ha scritto una porcheria. L'unica cosa che lei potrebbe fare in questo momento non è neanche chiedere scusa, capisce? Ma io non siamo in un livello di che sono adesso 19 io chiedo scusa a quella ragazza polacca che è venuta in Italia a passarsi una vacanza, avrà un bruttissimo ricordo del nostro paese perché è stata stuprata da delle persone che tra l'altro il finto profugo accolto in una cooperativa era a capo, che si faceva le fotografie su Facebook, tutto. Vabbè, questo lo sappiamo. Non cambi le carte in tavola, perché vuole mandare uno stupratore a casa della Boldrini? Il mio posto è infelice, bene, chieda scusa se è infelice allora. Assolutamente, io non chiedo scusa perché il mio era il senso del post. Caro Presidente della Camera, tu sei la terza carica dello Stato, allora devi smettere di incitare un'immigrazione di questo tipo. Vabbè, questo sarebbe non avrebbe... te li prendi a casa e li educhi a casa. Non avrebbe fatto scandalo. Non posso uscire alla sera per andare a prendere un gelato. Uscire, ma dai, su, ma questa... stiamo scherzando, ma ci girate per le città, ma lo vedete cosa Camiciotto, succede? Hai scritto un'altra cosa. Ho scritto quello che in quel momento ho pensato a difesa di tutte le persone che subiscono per colpa di gente che fa arricchire le cooperative, che fa arricchire le cooperative. Ma cosa c'entra questo? Queste sono posizioni politiche. Tu hai scritto, scusa Camiciottoli, io sai come la penso sull'immigrazione, sai come la penso sull'immigrazione clandestina, lo sai come la penso. Questo cosa significa? A me è bastato fare un decreto che colpisse le cooperative, che da me le cooperative non sono. Ma cosa c'entra le cooperative col fatto che vuoi mettere uno stupratore a casa della Boldrini? Cosa cazzo c'entrano? Cosa c'entra? Ma era un post perché non se ma ne non può è più. Un post, che è una cazzata. Casa sua, che se li prende a casa no, sua. No, tu hai detto gente. Si prende uno stupratore così le mette il sorriso. Gli mette, hai scritto il sorriso. Sì, bene, cioè dire sì, la stupra così. Cioè no, dire no, Fabio. No. Ma per l'amor di Dio, ma che vuol dire quella cosa? Ragazzi, però non giriamo intorno alle cose. Quello vuol dire ma quella. Ma non ci giro intorno. Sì, l'interpretazione può anche essere quella. No, è quella. Dì la verità. Non ti tirare indietro. No, assolutamente io non mi tiro indietro da niente. Il mio stato d'animo è quello di gran parte degli italiani. Tu vorresti che la Boldrini avesse un assalto da parte di qualche stupratore? Assolutamente sarebbe la giusta pena per quello, per le sue politiche. Assolutamente. E quello però hai scritto, amico mio. No, non era quello il senso del mio posto. Allora perché non chiedi scusa? Io chiedo scusa alla turista polacca. Quello tutti io chiedo scusa perché è colpa della politica italiana che continua a far arrivare chiunque in Italia. Scusa Parenzo, tu stavi dicendo che si dovrebbe dimettere, David? No, io dico che purtroppo il tempo massimo, cioè sono 19:30, è già superato. Lui non può neanche chiedere scusa perché non è sufficiente. Lui si dovrebbe dimettere da quella porcheria che ha scritto. Non c'è argomentazione a sostegno di quella cosa. Non ci sono le scuse. Non bastano. Finito. Chiudi. Devi dimetterti. È una porcheria quello che lei ha fatto. Se lei non si rende conto della porcheria non c'è da ridere, che ha scritto, non c'è da lei che ha un ruolo. Non rido manco per niente. Lei ha un ruolo pubblico, ma non si vergogna di quello che ha. Autorizza a dire le peggio cose, ma non tanto alla terza carica dello Stato, non è il problema di carica, alla persona Boldrini, lei si deve dimettere, ha firmato le carte, io lo firmo io, assolutamente no, che le mando le dimissioni immediate, facciamo una cosa Parenzo, chiediamo scusa alla Boldrini se l'ho offesa, ma insieme in tutta Italia chiediamo scusa alla turista. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Chiaro chiedere scusa alla polacca, che vuol dire? Ma perché devo chiedere scusa? Che cosa? Perché un immigrato l'ha stuprata, ma che vuol dire? Ma non è che devo chiedere scusa io. Dobbiamo accogliere chiunque in questo paese. Tu stai dicendo, oltre ad aver detto che la Boldrini è responsabile in parte dello stupro di questa ragazza, lo hai detto, dici anche che bisognerebbe mettere un immigrato stupratore a casa sua, così la fa felice. La politica della Boldrini e non chiede scusa. Dice che è un posto infelice. Vabbè ragazzi, io lo sai come la penso sulla Boldrini, lo sapete come la penso sulla Boldrini, sulle politiche della Boldrini, su quello che dice la Boldrini. Per me dice delle follie, per cui non so, però su questo la difendo. Uno non può dire bisogna mettere uno stupratore a casa della Boldrini. Ciao sindaco, niente, che ciao che devo dire, vaffanculo. così, quella è l'unica volta che avete dovuto dirlo, esattamente. Vabbè, Ponti, come si chiama? Camiciottoli, ti saluto, va, ciao. Poltrini, Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, Poltrini, ed è morta. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ieri ho fatto una visita dall'urologo con tanto di ispezione rettale a causa di un'infiammazione dell'epididimo. Una delle cause potrebbe essere un reflusso di urina, in poche parole, me lo devo sgrullare di più quando piscio. Ho chiesto al medico se quindi fare la pipì sotto la doccia sia una scelta corretta e mi ha risposto che è la cosa migliore da fare. Cruciani, sei il mio vate. Parenzo, sei il mio vate. A cosa c'entra Parenzo in questo caso? Non mi pare che, no, cioè, non mi pare che dia, non mi pare che dia consigli, no, sul fatto di pisciare sotto la doccia, per esempio. No, ma tutt'altro, non mi permetterei mai. No, ma la cosa che mi stupisce ogni giorno di più dopo 8 anni di Cayenne, questo è l'ottavo anno. No, poi tra l'altro ha detto sei il mio vater, ha detto di te, non mio vater, il mio vater. Sì, sì. Io non mi rassegno al fatto che esiste un'Italia migliore. Cioè, io lo so, mi sembra, cara maggioranza silenziosa, che non sia così ad ascoltare, ed è il primo giorno, è il primo giorno dell'anno praticamente, no? Della nuova stagione radiofonica, eh. E io pensavo che il mondo non è cambiato, purtroppo, però noi siamo di più, noi siamo la maggioranza. Ma voi chi? Mi capace del fatto che questa gente chiami per parlare di queste porcherie, perché non c'è più una dimensione del privato, del bello, della cosa. Scusa, sono che cos'è che ti sconvolge? Il fatto che ti ho detto, ti ho fatto una confessione molto intima, no, ti ho detto semplicemente che l'arte della scoreggia, l'arte della scoreggia, l'aerofagia è eccezionale, l'aerofagia, la flatulenza, sono tutte cose straordinarie, c'è anche una gradazione, l'abbiamo fatta più volte, dei diversi odori che si possono sentire, delle diverse, come dire, di diversi quasi sapori, li chiamerei sapori, è straordinario. Ti assicuro, racconterò dettaglio per dettaglio. Oh mamma mia, che schifo. Dettaglio per dettaglio tutte le situazioni in cui ho lasciato traccia di me, una traccia vitale, vitale, una traccia vitale. Cristiano, provincia di Milano, vai. Cristiano. Pronto, oh. Giuseppe? Dimmi, caro, dimmi. Ciao, allora, però tu ti dimentichi anche della tonalità delle scoreggie. Vabbè, ma quello, la tonalità, amico mio, la tonalità. Ecco, la tonalità è importante, però non è tutto. Quando manca, no, per esempio... certo, più la flore, diciamo. No, devo dire la verità, quando uno emette dei peti, ecco, definiamoli sì, qualche volta anche così, in maniera anche nobile, diciamo, non sì, per no, forza. Sì, è una fastidio, è una allora, malattia. Qualche volta mi vengono. Ma come fai a stare in mi vengono delle flatulenze, dire? Infatti non ci sto. Qualche volta emetto delle flatulenze, dei peti che sono talmente forti che non hanno nessun odore. A te capita, Cristiano, per esempio? Sì. Cioè, sono potenti, sono potentissimi, ma non hanno odore. Non certo, c'è odore. Quello, ma poi questo è buono, però questo è importante, L'altra cosa importante per evitare, diciamo, la tonalità, basta magari appoggiarsi nel dispigolo in modo che le chiappe si dilatano un attimo e esce il fischione senza far rumore. Sì, vabbè, quelle sono tecniche che uno può affinare senza rumore, senza anche senza odore. Sì, c'è assolutamente un'università della flatulenza, dell'aerofagia, ma tu che cosa fai per rimediare a questo? Allora, io per rimediare ho trovato delle tisane al finocchio. Delle tisane al finocchio? Sì, delle tisane al finocchio, o insomma c'è anche una farmacia molto famosa e rinomata a Milano che fa prodotti omeopatici. Sì. E ha proprio delle pastigliette che si chiamano Pancia Plat. Ma no, beh, adesso non è che possiamo fare la pubblicità. Io ti dico il prodotto. Ah no, i prodotti omeopatici. Parenzo è a favore della chimica. Della chimica. Qualcosa di chimico, bello tosto subito, però io non ce l'ho, diciamo. Secondo mano. Me non c'è niente da fare, lo sai che non c'è niente da fare. Comunque, ragazzi, esiste sicuramente anche un'associazione degli scorreggiatori italiani, Parenzo. Su quello io. Ah, sì, secondo me. Io sì. Devo trovarla che mi iscrivo subito. Va bene, Claudio Bologna, vai. Ma anche questo qui che chiama, ma non ha pudore, voglio dire. Vai Claudio. Ma che mondo è? Io volevo parlare con Parenzo riguardo quel signore, quel giornalista che l'altra sera è intervenuto nella trasmissione di Belpietro e se n'è andato. Sì. Cose che aveva preventivamente. Vabbè, ma questo qua ha fatto il suo show. D'altra parte, la televisione è uno show. È uno show. E questo qua ha fatto il suo show. Niente da dire, anzi, numero uno. Ma volevo dire che alcune sere prima, nella trasmissione del signor Parenzo sulla la 7, ha fatto una figura esattamente contraria. Quello che voleva dire i fascisti a tutti, mentre qualcuno ha detto che l'unico fascista che era presente in trasmissione era esattamente quel signore che poi si è presentato. Come no? Vabbè, ma ragazzi, ma possiamo dire chi se ne frega? Qual è il punto, Claudio? Di cosa vuoi parlare? Spiegami. No, semplicemente voglio dire che quel signore, che sono un signore che è nato lì a provocare, che non credo sia il caso, perché se lui non voleva, come molti altri, non vogliono vedere una televisione, non la guardano e basta. Non importa che vanno lì a fomentare quello e criticare tutti quelli che invece la guardano, perché di questo si riconoscono. Vabbè, ragazzi, noi l'abbiamo fatto. Scusami, però, Claudio, noi abbiamo mandato quegli audio là un po' per divertirci. Non è che vogliamo aprire il dibattito, è giusto, no? Quello che ha fatto l'ospite di una trasmissione televisiva, il tale Christian Raimo, dicendo quando mandate il prossimo servizio sui negri cattivi. Alla fine ce ne fottiamo, no? Cioè, abbiamo detto quello che pensiamo. Non è che vogliamo aprire il dibattito, la discussione. Ha fatto bene o no, ha fatto male? Non ha senso. Ciao, Claudio. Ciao. Parenzo, abbiamo con noi il mitologico Meluzzi. Buonasera. Come andiamo? Avete fatto buone vacanze? Beh, insomma, Parenzo, mancava, no, come sai? Mai vacanza. Come mai. Sai, Alessandro? Parenzo è uno stoccanavista, insomma. Beh, è rimasto sul pezzo anche in televisione. Adesso farò un po' di vacanza più avanti, ma vacanza relativa, c'è sempre questa roba della, c'è sempre questo mondo che mi persegue. È il mondo dei media implacabile, non ha tregua, questo mondo non di voi miserabili. Ma voi miserabili chi? Non ho capito, perché Meluzzi è un miserabile. Per alcune posizioni è miserabile del pensiero, per alcune cose, su alcune cose. Vabbè, comunque la sostanza è questa. La domanda a Meluzzi è diretta, sappiamo come la pensa sull'invasione, certo, sull'Islam, certo. È ben noto, ormai è ben noto. Allora, secondo te, gli islamici, la domanda è direttissima, gli islamici, tra cui molti di questi immigrati che arrivano qui sono anche islamici, non tutti naturalmente, certo, ma sono anche islamici, stuprano di più, sì o no? Ma la risposta ha due livelli di risposta. Uno direi è legato ai fatti, alle statistiche, che purtroppo, la domanda come diceva il compagno Lenin, non ha la testa dura. Quindi chi ha detto in questi giorni che stuprano di più gli italiani, se confrontiamo le cifre assolute? Ha detto una barra, 2500 stupri, 900 fatti da stranieri e 1400 fatti da italiani, non tiene conto di un concetto statistico che Parenzo, che è un uomo acculturato, ma anche tu, Cruciani, sicuramente conosci, il concetto di media ponderata, cioè confrontare il numero di una popolazione con il numero dei reati. Beh, certo. Per esempio, se noi prendiamo il dato dei reati in generale, violenti, anche che includono anche il furto in appartamenti, vediamo che gli italiani, gli stranieri, commettono il 32% dei fatti che sono oggetto di denunce e di procedimenti penali, e sono l'8% della popolazione, il che vuol dire che hanno un indice di pericolosità delinquenziale di 4 volte maggiore, cioè moltiplicato per 4. Quando spostiamo questo dato al dato sessuale, questo si sposta addirittura a 1 per 6. Allora, chiedere, scomporre la casistica degli stranieri evidentemente non è semplicissimo, ma è relativamente semplice, perché indubbiamente in questa casistica tra gli stranieri, che coloro che più commettono questo tipo di reati, ci sono persone che, valutando naturalmente la loro provenienza geografica, sono di religione di civiltà islamica, il che non significa che non sia una predisposizione genetica o che sia un tratto del carattere. Però certamente qualche cosa questo vorrà dire. E che cosa vuol dire secondo te? Che chi è di religione islamica considera la donna ad un livello più basso e dunque... Esempio, questa potrebbe essere una delle interpretazioni possibili. Per esempio, una civiltà nella quale sono stati fatti, questi sono dati internazionali, in Italia 36.000 infibulazioni, che tu sai bene che cosa sono, sì, no? Che vuol dire cucire, la vagina della bambina e recidere il clitoride per impedire che provi un orgasmo. Evidentemente ha una rappresentazione del corpo, diciamola, della donna, diciamola tutta, tu stai dicendo che la sessualità, che è sicuramente molto diversa, cioè, stai dalla dicendo tua e dalla che mia, gli immigrati islamici sono più predisposti alla violenza nei confronti delle donne rispetto a un italiano medio. Diciamo che provengono per ragioni culturali, storiche, con tutto, ma poi badate bene, che io voglio dirvi anche una cosa. Per esempio, io ho una grandissima stima, per esempio, per il re del Marocco. Perché il re del Marocco, che si dichiara discendente profeta Mohammed, è forse quello che nel mondo islamico più sta contribuendo ad un'evoluzione della teologia islamica. Per esempio, è stato il primo stato musulmano in cui è stata tolta la, come dire, la pena, la fatwa di morte per gli apostati, per coloro che vogliono cambiare. Però voglio dire una cosa, che fino a sei mesi fa era anche nella legge marocchina, come nella legge di tutti gli stati islamici. Quindi questo vuol dire che qualche possibilità di evoluzione c'è. Certamente coloro che provengono da quella società hanno della donna, della libertà della donna, della libertà di scelte dunque, sessuali della donna. Dunque, un islamico stupra di più rispetto a un italiano. Tu cosa stai dicendo? Un cristiano, Io sto dicendo una cosa molto semplice, che un islamico, un afro-islamico, in particolare un afro-islamico, che proviene da un mondo in cui le donne devono andare in giro velate, portano il chador, le porte sono velate, e che vede una donna, intravede una donna, intravede una donna mezza nuda? Perché Parenzo mi dà sulla voce? Mi lasci finire il ragionamento. Io sto parlando di statistiche. Ma io sto dicendo, io ho citato solo delle statistiche, caro Parenzo. Spiace che tu gridi, ma io sto citando delle casistiche e cerco di spiegarle, cerco una chiave interpretativa. Poi può darsi che la mia chiave interpretativa sia sbagliata. Cioè stai dicendo un islamico, afro-islamico, un afro-islamico viene da un mondo in cui andare in giro con i pantaloni corti per una donna e senza velo viene percepito come un segnale di disponibilità sessuale. Può piacere o dispiacere, ma voi sentite le interviste. Avete sentito anche un mediatore culturale a Bologna, islamico, pakistano, che ha detto che lo stupro, come dire, non è poi così male. In definitiva, la donna poi si acquieta e gode. Allora, questo è un pensiero che evidentemente... Fai parlare Parenzo un attimo. Credo che sia un pensiero che può suscitare soltanto raccapriccio. Ma purtroppo ti ha colpito il meteorite della Bondì? Cosa ti è successo? Ti ha colpito il meteorite della Motta in testa? Cosa ti è successo? Ma che dici? Ti ha colpito il meteorite della Motta sulla testa? Quanto a te, caro Parenzo, ti ho già detto che se andiamo in un paese che io considero uno dei più civili del mondo, che è lo Stato di Israele, sentirai quali sono le misure che in Israele vengono prese per proteggere la popolazione israeliana e non dal fondamentalismo islamico. Allora tu dovresti andare a informare a Gerusalemme o a Tel Aviv per sapere quali sono le misure che la polizia dello Stato di Israele prende per proteggere i cittadini. Scusami, Meluzzi, del fondamentalismo islamico. Scusami Meluzzi, ma Mentana ti ha dato del baluba, ha detto anche che... È un insulto razzista, perché baluba è una tribù del sud del Congo ed è un tema che veniva utilizzato fino a qualche anno fa dai settentrionali per insultare i meridionali. E dice anche che delle due vittime non ti porta nulla. Io sono napoletano di nascita, quindi può darsi che l'abbia usato da lombardo nei confronti di un napoletano, dimostrando quindi un certo indice di razzismo anche interregionale, tra l'altro. Cosa ti è successo? Allora dice anche di dire milanese, aspetta ragazzi, baluba, allora baluba è il nome di una tribù del sud del Congo, ma è un modo di dire milanese, appunto, è un modo di dire razzista anche, come dire, anche interregionale, è un modo di dire, dillo se vedi alla sette, allora Mentana ha criticato, mi ha insultato dandomi del baluba, ha criticato Meluzzi per un post che ha fatto Meluzzi, un tweet adesso non mi ricordo, in cui ha scritto un retweet quando quella sera dello stupro è uscito una foto. Hai scritto i nuovi italiani stupratori di Rimini accolti integrati dei buonisti catto comunisti, adesso basta davvero con questi schifosi subanimali, esattamente, ma quella è una frase, hai pubblicato una foto che non era quella, naturalmente, ma quella è una foto uscita su Rimini Today che io ho ripetato perché era una foto segnaletica dei carabinieri, è un errore che immediatamente è tolto e di cui mi sono scusato, se ne dovrò rispondere con dei giornalisti ne risponderò, non è un problema. Comunque, ha detto che non è una ragione che meritasse un insulto come quello di baluba o di professionista. Insulto? È un modo di dire oppure odiatore di professione. Io non ho mai dato dell'odiatore di professione a nessuno, neanche agli islamici. Ma lui dice di non averlo scritto odiatore di professione. No, no, lo dice voi, odiatore di professione. Lo dice in collettivo, includendo anche me. Leggiti il post, se poi te lo rimando solo, lo ritweet immediatamente. Vai. Ha definito me e coloro che mi sono scritto odiatore di professione. Ma è un baluba. Ma io credo che lo siate davvero, questo su questo senso. Allora va bene, ma tu odi l'Islam? Odi l'Islam, come facci? Io non odio nessuno, anzi io amo molto e stimo molto l'Islam. Posso dirvi anche che sono stato molto preoccupato dalla presa di posizione di quell'imam di Bari che ha detto nella preghiera del venerdì frase che è stata suscettibile di una denuncia che Stefano Cassinelli, segretario del PAI, partito non antislamico ma antislamizzazione, che sono due cose radicalmente diverse, durante la preghiera di lunedì ha detto: attenzione, noi siamo contro i disseminatori di corruzione. È una frase contenuta esattamente nella Sura 5, versetto 33 del Corano. E che dice? Ma perché noi lo studiamo il Corano? Lo studiamo, io ho un grande stima. Cioè, stai dicendo che ti ha fatto una fatua? Ti ha fatto una... Che ho studiato molto. I disseminatori di corruzione sono un termine preciso, che non è inventato, è specifico, e devono essere puniti con la morte e la crocifissione. Addirittura. Ma questo lo dice il Corano, lo dico io. No, Meluzzi, io voglio capire una cosa. Secondo te, questi qua che stuprano, la responsabilità di questi stupri di Rimini è di chi porta gli immigrati in Italia? Diciamola tutta, però non andiamo troppo per il sottile, dai. No, io sono un tomista, ci sono le cause prime, le cause materiali, le cause formali, le cause seconde. È chiaro che ci sono tante cose. Scusa, ma hai scritto gli italiani stupratori di Rimini, nuovi italiani accolti e integrati dai buonisti gatto comunisti, adesso stai dicendo io sto dicendo che ci sono tanti livelli di cause. C'è la causa efficiente, la causa prima, la causa... Per esempio, se c'è un'epidemia e io importo il portatore dell'epidemia, chi viene contagiato dal portatore dell'epidemia? Chi è il colpevole? È quello che ha guidato la nave, è quello che ha scaricato il contagiato. Ma tu dici che c'è un problema? Certamente il buonismo catto comunista ha molte responsabilità in una situazione che in Italia e in Europa a breve diventerà assolutamente ingovernabile. Cioè, ci sarà una guerra civile. Aspettiamo la prossima conversione di Meluzzi. Aspettiamo la prossima conversione di Meluzzi. Quando Meluzzi tra un anno lo richiameremo e sarà diventato un islamico. Non credo, lo escludo. Io sono un attento studioso dell'Islam, sono spaventato dall'Islam, ma certamente difenderò mia figlia a rischio di vivere in una società islamizzata. Difenderò mia figlia e i miei nipoti dalla possibilità orribile di poter vivere in una società islamizzata. Che mi aspettiamo la prossima conversione. Ciao Alessandro, ciao. Mauro Torino, vai Mauro. Mauro da Torino. Ciao. Dimmi Mauro. Ciao. Ma volevo dare un contributo su quei quattro farabutti di Rimini. Ho letto sul giornale oggi che la Polonia ha chiesto ufficialmente... Sì, ha chiesto l'estradizione, sì. L'estradizione. Allora, io mi auguro che il solito buonismo del cazzo l'italiana non prenda e non ci impedisca di spedirli via, per due ragioni. Il primo... Io non so se in realtà le leggi in Polonia prevedano pene maggiori, come molti dicono. Alcuni dicono di no. Oggi ho letto da qualche parte che in realtà portandoli, dicendo beh, diamoli alla Polonia così sti cazzi non li manteniamo noi, eccetera, eccetera. Esatto. In realtà potrebbero essere liberi prima, ho letto da qualche parte. Con un'unica differenza, che da noi anche se gli danno 10 anni, dopo 5 sono questo fuori. Può essere. No, la cosa incredibile, ragazzi, è che qualcuno ha fatto un calcolo. I minorenni, cioè stiamo parlando di un 17enne, di un 15enne marocchini, sempre se alla fine risulteranno colpevoli come sembra, alla fine potrebbero cavarsene in un paio d'anni. Cioè, tra tutte le cose, tra tutte le facilitazioni, le riduzioni di pena, le comunità di recupero e chi più ne ha più ne metta, questi qua potrebbero cavarsela, essere liberi dopo 2 anni, semplicemente perché uno ha 17 e un altro 15. Adesso Parenzo dirà: tu vuoi stravolgere lo stato di diritto per i minori, eccetera, certo, eccetera. Ma sono minori, un cazzo, hanno stuprato una persona, me ne fotto che sono minori. Ci sono alcuni reati, per i quali il fatto di essere minori, a parte che 17 anni è, comunque non è semplicemente per un anno, te la puoi cavare con 2 anni, capito? Questa tutela dal tribunale dei minori, in realtà non si sapeva che sarebbero diventati degli stupratori. Cioè, come ragionate? Ma che razza, cosa vi dice il cervello? No. Cosa vi dice a ci voi? Dice ci fa incazzare il fatto che due solamente perché minorenni, solo perché minorenni se la possono cavare in 2 anni. Ci fa schifo questa cosa. Ma il diritto vale per tutti. Ma che vuol dire il diritto vale per tutti? È chiaro, no? Quello lo diamo per scontato. Dei giovani italiani avrebbero lo stesso trattamento che hanno questi due, fermo qui, là, ma sono dei criminali. Fermo. Ma fermo niente, ma fermo il paese, tu e tutti quanti. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami. Tu sei riccione come Macron, tu sei riccione come Macron, tu sei riccione come Macron, tu sei riccione come Macron. Naturalmente. Downtown, where we walk the streets so beautiful and free. Ciao, siete rimasti solo voi in ferie, porca puttana. Senti i tuoni, senti i tuoni. Dovete lavorare, dovete lavorare. Allora, due debosciati. Io sono 3 settimane che lavoro come un padano vero. Non ne posso più di guardare su Boeing, i Teen Titan alle 7:30 di sera. Vi dovete dare una mossa, è ora di tornare. Non ne posso più di Barisoni e di quelle cose pseudo che il generico che arriva dopo. Dovete tornare al lavoro, tornate al lavoro, lavorare. Allora riprendiamo, caro David, riprendiamo questo primo giorno straordinario di Zanzara. E riprendiamo con che cosa? Una giornata terribile, sono allibito, sono avvilito e anche allibito. Ma perché sei allibito? Perché gente, io ho capito, ma la gente chiama e dice la sua, qual è la cosa strana, qual è la novità? Avvilito, è quella novità che questa gente parla, questo è il punto. Allora, andrebbe interdetto, però. Per esempio, Mauro da Mantova quest'estate è stato ospite alla fine di agosto, come un editorialista, come un opinionista, direi. Di una gravità inaudita, sì, infatti è una cosa che io dire. In una televisione a parlare di cose, ma delle carte mi hanno detto in mano, sì, anche esatto. Ha detto tanti documenti, dei documenti. Ma quali documenti? Andrea Purgatoria dei documenti, erano ritagli di giornale dei documenti, non quelle scemo là. Ma guarda che è una cosa che e sai chi è il responsabile di tutto questo? Ha un nome e un cognome. Si chiama Giuseppe Detto Beppe Cruciani. No, ma non è vero. Criminale, sì, sei tu che hai delle grandi colpe. Hai delle colpe, però, che adesso hai creato dei mostri. E questa gente ti voglio fare sentire, Mauro, che cosa ha detto? No, è una cosa incredibile. No. Senti su Chavez il carrozziere di Caracas, è stupenda, guarda, senti. Cosa ne sai? Senti, ti prego, senti. Chi ha avvelenato Chavez? Perché Chavez non è morto di leucemia, è stato avvelenato col polonio di 110. Io lo so. Da un gancio che ho a Caracas, un italiano che è 30 anni che ha carrozzeria a Caracas, che ce l'ho a casa, c'ho nome e cognome e anche il numero del telefono. Ho detto, va, che disgrazia, 4 anni fa, prima che si insediasse Maduro, appena morto Chavez, che disgrazia, povero Chavez, è morto di leucemia. Mi dice, ma quale leucemia? È stato avvelenato un polonio 210. No, lo sanno tutti in Venezuela, è che la stampa non lo dice, perché fa scomodo, è scomodo. L'amico carrozziere di Caracas. No, ma tu ti rendi conto? Ma perché fuori da quello? Perché durante quella diretta in quello studio televisivo non sono piombate dentro 8 persone vestite di bianco e non lo hanno caricato su un furgone con una luce blu sopra? Perché? Secondo te perché? Ma tu ti rendi conto? Perché ormai in televisione può andare chiunque, questa è la realtà. Ecco, questo è dato. Questa è la realtà e fatti la domanda e date anche la risposta. Allora, io vado con le 28enni, non vado con le vecchie, senti. Che affidabilità possono avere quei busli? Me lo spiega, signor Monaco? Che hanno 800.000 chilometri. Ma lei andrebbe con una di 90 anni? Io no, vado con una di 30. O anche di 28, come ultimamente mi è successo. Io ho un asso nella manica, le fotocopie. Senti, le fotocopie. Tira a un certo punto le fotocopie, dice: voglio dimostrare che De Benedetti è. Ah, io ho le fotocopie, no. Ma sono ritagli di giornale. Tipo Verdone, senti. Hanno verificato il pacco. Intestata a Renzi Matteo. C'ho anche la foto, se vuole gliela faccio vedere. C'ho la foto, me l'ha mandato un mio fan. C'ho la foto, che lui gira con un politico, non mi ricordo chi è. Sì, però parte da un presupposto tu. Che qui non è la Zanzara, qui sei a... Ma però io dico la verità. No, sì, questo puoi dire tutte le verità tue finché vuoi, però attento a... Signor Monaco, c'ho sempre l'asso nella manica, ho le fotocopie. Ma le fotocopie di cosa? Tira fuori una cartella con tutte le fotocopie che ha dei ritagli di giornali qui. Senti, contro gli ebrei naturalmente, senti. Chi ha voluto il governo Weimar in Austria nella prima guerra mondiale? Le banche, chi ha distrutto l'economia in Germania nel 32, il 28, 29, 32, che poi nel 33 mi sembra andato su Hitler, le date non ho molta memoria. Le banche hanno distrutto l'economia in Germania. E di chi sono le banche? Sono degli ebrei, Loro hanno l'obiettivo da 2000 anni, diventare i padroni del mondo, ma non ci riusciranno mai, per fortuna non ci riusciranno mai. Li fermerà la Cina, li fermerà la Russia, la Corea, gli Emirati Arabi e l'Iran. Ma voi siete stati ancora sotto un ebreo? Non ve lo auguro, non ve lo auguro. Gli ebrei sono delle brutte persone, non tutti, ma un buon 80-90% sì. Li ho conosciuti. Chi parla qua si assume le proprie responsabilità. Ma io li ho conosciuti e posso verificare che non sono delle buone persone. Allora, questo è il delirio di Mauro, ragazzi. Andiamo in provincia di Chieti, vai Giuseppe, vai. Ma io ancora libero, ma è una cosa che... Giuseppe, dimmi. No, questo è il solito da Chieti, dai. Chi è questo? Il solito Giuseppe da Chieti, il solito cretino, dai. Da Chieti, Giuseppe da Chieti. Dai, dimmi. Luciani, dimmi. Quello che vi ha sostituito sì. È la peggio della merda che c'è a fianco. No, veramente. Qui l'unica merda, l'unica merda sei tu. Questa è la realtà. L'unica merda vera, l'unica io merda vera, merda, reale, ma reale, maleodorante, maleodorante che si sente allora. L'olezzo, il puzzo anche da qua, da Chieti, dove cazzo abiti tu? Sì, l'unica sì. Cosa che si sente è la tua puzza di merda. Questa allora, è la realtà. Io sono incazzato nero con lo Stato italiano. Noi siamo incazzati non è col fatto che tu esista, questo è il punto. Questo è. Cruciani, allora. Dimmi. Allora, cosa dice lo zerbino che c'è a fianco sì. Per quello stupro? Cosa ma pensa? Cosa pensa? Che è una cosa orribile, non c'è bisogno. Cosa pensa? Guarda che se fosse successo a mia figlia, che c'è la stessa cosa di quella ragazza. Cosa avresti fatto? Io quelli là li spellavo vivi. Ma come? Se non ti facevano manco avvicinare dalla polizia, se lo arrestavano pure te. Ma che cazzo se ti avvicinavi davanti casa, e che facevi? Ma padre, non facevi niente. Ma che facevi? Spellavo prima il padre e la mamma. Ma non facevi niente, perché a te ti prendevano là davanti e ti portavano in galera, prima al pronto soccorso alla Neuro e poi in galera. Non ti preoccupare tu, Cruciani. Vabbè. Cioè, ma dove cazzo siamo arrivati? Cioè, quello là doveva essere espulso con la moglie. Che sta, aveva minacciato la vicina di casa. Ma quello è un altro discorso. Ma cosa deve succedere in Italia più per reagire? Cioè, che cazzo reagire come vuoi reagire? Vuoi ammazzare? Vuoi ammazzare qualcuno? Che vuoi fare tu? Dimmi cosa vuoi fare. Ma non lo so, io voglio che questi qua vadano in galera, buttino la chiave, arrivederci, grazie. Ma chi ce lo mette in galera? I giudici di quelli democratici, da come cazzo si chiamano? Quelli sì. I rossi. I rossi mettono in galera quelli là. Cosa rossi cosa? Vabbè, Giuseppe, sei un cretino. In Polonia. Beh, questo è un altro discorso. La Polonia, se li prende, ci toglie anche un pensiero. Vabbè, Giuseppe, mi hai rotto i coglioni. Ciao, Roberto dalla Spalmas. Vai, Roberto. La Spalmas, dunque, Canarie. No, Canarie, dove cazzo è la Spalmas? Canarie. Vai. Sì, buonasera. Aveva perfettamente ragione Parenzo prima all'inizio della trasmissione quando diceva a proposito che i marocchini dovevano restare in Italia perché il tribunale dei minori li tutelava. Chi ha sbagliato? Ragazzi, quelli là erano stati, dovevano andare via in Marocco col padre. Semplicemente ricordato la sentenza del tribunale dei minori. Dimmi, hai sbagliato tu, perché quella fuori posto era la polacca che era in Italia, non i marocchini, hai capito il senso? Era la polacca che era sbagliata, non doveva essere qui la polacca, secondo Parenzo la storia è questa. Non so più Roberto, io ho ricordato semplicemente che c'è stata una sentenza che voi direte che è burocratese, ma non è così. Non sai dove arrampicarti sui vetri, pur di difendere. Il tribunale dei minori a tutela di quei due minori poi risultati criminali. E comunque in ogni caso, considerando che Lubuntu, lì o come cacchio si chiama, ha detto che siamo fratelli, io ripeto che sono un fratello unico e se sono sto bene così, guarda. Ma scusami, sei fratello tuo. Ma Roberto, non ho capito che cosa vuoi dire? Ho detto che io sono fratello unico. Aspetta, che non sento niente, Roberto. Non sono fratello di Ubuntu, sono fratello unico e sono felice così e spero di restare così, fratello unico. Vabbè, non vuoi essere fratello di Ubuntu, ma che cosa volevi dire ancora? Leggo qua il sindaco la Boldrini, sì. Sì, ha ragione perfettamente, ma quello più bello è quello ma di... Ma cosa? Chi ha ragione? Il sindaco, sì, la penso anch'io come lui. Cioè che bisogna mandare lo stupratore a casa della Boldrini? Certo, e poi dopo mettersi fuori lo spettacolo. No, ma ragazzi, però... ci viene da ridere, così stiamo lì e ci divertiamo un attimino a vedere cosa succede. Ma Roberto, ma è una follia, ma stai dicendo una cosa assurda, Roberto, dai, stai dicendo che è giusto mandare uno stupratore a casa della Boldrini a fare violenza sessuale, ma è una cosa ridicola, dai. Non questo, li mandiamo a casa sua a fargli fare domiciliare, poi quello che fanno o fanno non lo so. Ma che vuol dire? Ma è chiaro che la cosa. Ma c'è la cosa implicita che si vuole dire quando uno dice questa frase qua: è che la Boldrini dovrebbe essere stuprata da un. È così, è inutile che vi nascondete dietro. Ragazzi, uno si. È una cosa implicita, ma lo dici tu che è implicito. Ciao, Roberto. Riccardo, Bologna. Mi fa schifo questa cosa. Riccardo, Bologna, vai. Buonasera. Dimmi. Sarei anche d'accordo col dottor Parenzo, nel senso che la pena prevista sono 2 anni, benissimo, gli facciamo fare 2 anni, dopodiché i signori vengono direttamente espulsi perché queste persone non sono degne di stare sul suolo italiano, tra le altre cose uno è anche un rifugiato, lo rispediamo in Congo. Serenamente. Beh, non penso, scusami Riccardo, adesso con tutto il rispetto, non credo che questo signore qua resterà a lungo in libertà. Ma in libertà e non libertà. E quando finisce non credo che il problema in questo momento sia resta in Italia, se ne va in Congo, eccetera, eccetera. No, questo qua, se è colpevole, come sembra, okay. Verrà condannato, spero, ad una pena gravissima. Il problema c'è perché questo, quando esce, rimane sul suolo italiano. Deve essere ma quando esce? Ma quando esce? Ma no, ma sarà espulso. Quando uscirà? Tra 30 anni, 40 anni, spero. Spero. Il problema è che gliene danno 2 o 5. No, 10, quello è minorenni. Purtroppo i minorenni daranno una pena lieve. Anche i minorenni. A me non me ne frega un cazzo che sei minorenne. Se a 15 anni hai stuprato qualcuno, devi prendere 20 anni lo stesso. Me ne fotto che sei minorenne. Siamo d'accordo. Sono d'accordo anche con questo. Il problema è che la legge dice 2 anni, dopo i 2 anni che ti fai qua, fratello, forse, Bologna, dopo i 2 anni che ti fai fuori Bologna, dai coglioni in Congo, fuori dai coglioni. Maserani e torni a casa. Vabbè, ma quello adesso lo vedremo. Ciao Riccardo, ciao. Aspetta, il mediatore culturale c'è anche. Il mediatore culturale di una cooperativa di Bologna, pakistano, sì. Ma quello è un cretino. È un imbecille quello lì. Allora, adesso è stato licenziato. I mediatori culturali sono come il pakistano. Ma che dite? Ma questa cosa qui deve finire. Dovete smettere di dire questo. È il pakistano. Ma lei, qui era pakistano. Lei di dov'è, ad esempio? Lei da dove chiama? Di dov'è lei? Io chiamo da Bologna, dove c'è quello. Ecco, non è che tutti i bolognesi sono degli imbecilli come lei, ad esempio. Io non potrei combattere. Io dovessi prendere la sua telefonata. Ma neanche i padovani sono tutti ebrei come te, coglione. Quindi adesso non è che siccome un pakistano fuori, devo andare fuori. Non è che siccome c'è un imbecille fuori. Tutti i mediatori culturali sono degli imbecilli, perché chi fa questo ragionamento è un imbecille, fermi. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Ma quando ricomincia la zanzara, siamo in astinenza. Quando cazzo tornate, ricchioni? A David, ma dopo un mese con Galimberti, Settis, Zagrebelski, di la verità che ti mancano un po' Mauro da Mantova e Donato da Varese. Di la verità, Parenzo. Di la verità, David. È un mese che ascolti i vostri podcast. È un mese, ormai li so a memoria. Li uso al posto dello Xanax, se vi rendete conto. Tornate. Mi manchi, Cruciani, torna presto. quando è che riaprite, o buchi? Aspetto il ritorno della zanzara più della seconda venuta di Cristo. Ma dove cazzo siete, pezzi di merda? Io sono al lavoro, non mi passa un cazzo. Non ci sono neanche i podcast. Ma cos'è? Vanno chiuso. Ma vi hanno chiuso. Tornate a lavorare. Ciao Parenzo. Ciao Crux. Oh pezzi di merda fancazzisti, ma finalmente siete tornati. Un mese di vacanza, ma andatevene a fanculo. Ciao stronzi. Parenzo, si ricomincia, si riaccendano le luci, Parenzone, forza! Allora, caro David, c'è un caso che è scoppiato oggi, un caso, diciamo, chiamiamolo così. Fabrizio Bracconeri, come al solito, il signor Bracconeri, quello che sparava zero sull'Islam, la mortadella, eccetera, eccetera. L'ex Bruno Sacchi, dei ragazzi della terza C. Cosa ha fatto? Se l'è presa con l'ex ministro Cécile Kyenge, la tua amata Kyenge. Ha scritto su Twitter, non mi viene il nome della buzzicona muslim che era ministro, non mi viene il nome della buzzicona muslim che era ministro, a parte che non era musulmana. Ma credo che dire buzzicona da parte di uno che certamente non è esile sia una cretinata. Poi ti ho trovata, Kieng, non dici niente dei tuoi fratelli merde muslim, sei abituata, conosci i vostri usi con capre, fate schifo, via. Sospeso da Twitter, chiamiamo Bracconeri, vai. Pronto? Oh Fabri! Chi è? Sono Cruciani. E Parenzo. Ero sicuro che chiamavi. Che hai e fatto? Per forza, quando uno scrive una stronzata è evidente che noi chiamiamo. Ringrazio che non ha chiamato, che non ha chiamato la Croce Rossa. La Croce Rossa. La Croce Rossa lo chiama per chi fa ancora che se subisce e sta zitto, David. Ma scusami, scusami Fabri, però io sì. Dico una cosa. Tu hai scritto e ti hanno sospeso pure l'account, se non sbaglio, o no? Sì, sì. Vabbè, ma tutto sospeso senza Twitter, sì, dire, tutto finito, tutto sospeso, tutto morto, tutto finito. Vabbè, comunque Fabri, hai scritto non mi viene il nome della buzzicona muslim che era ministro, giusto? Sì. Allora, io dico, innanzitutto qui c'è un errore, perché la signora Kyenge, perché tu ti rivolgi alla signora Kyenge, non è muslim, non è musulmana. Vabbè, è muslim perché è pro-muslim. Beh, allora tu che significa? Hai scritto muslim, hai scritto? Perché volevo scrivere pro-muslim. E invece poi, hai scritto solo muslim. Sì. Ma Bracconeri dovrebbe vergognarsi, chiedere scusa, in quest'ordine, prima si vergogna, poi chiede scusa, come terza cosa va per un mese a fare le pulizie nel bagno di casa Kyenge, vai a pulirgli il bagno all'ex ministra, capito? Questa è la punizione che ti devo fare. Pulire il bagno di casa Kyenge. Questo problema che voi, se parliamo un attimo... No, il problema sei tu! Il problema è quest'anno, guarda Cruciani, io te lo dico, quest'anno nel senso all'inizio della zanzara, oggi la prima puntata, da quest'anno non passano più questi. Io te lo giuro, non passano. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire non passa? Vabbè, se vuol però, dire che non se passa però, più. Deve essere un dialogo o un monologo? Basta, è un dialogo o un monologo? Aspetta. Non è dialogo, è fare le pulizie a casa Kyenge. L'unica cosa che puoi fare è andare a pulire il bagno della signora Kyenge. L'unica cosa che puoi fare... L'unica, quando ho finito posso parlare, posso replicare. Dimmi Fabri, dimmi. Siccome la che Meringhe è stata la ministra delle dell'integrazione. Ecco, dell'integrazione, sì. E allora... questo casino che c'è oggi è perché loro sono veramente incapaci, perché hanno, non hanno gestito l'integrazione. Ma questi che c'entra? Che perché la Chieng rompe i coglioni e a violentare. Che è colpa della Chieng? È colpa della Chieng se vengono a violentare? È colpa della Chieng? Certo, perché certo, è colpa della Chieng. È colpa di loro che li fanno venire e non li controllano. Allora, noi ci abbiamo i mafiosi, i delinquenti, i fide della mignotta, gli assassini, sì, ce l'abbiamo già coglioni, in Italia, sì. Non li dobbiamo andare a importare dall'altra parte. Perché non importiamo gente per bene, invece di importare questa marmaglia che stupra, che fa violenze a 81 anni? Ci siamo rotti i coglioni di questo governo che non fa un cazzo! Parenzo! Ma cosa dice? Ma che cosa dice? Viva la verità, ti piace o non ti piace? Ci siamo rotti i coglioni! Scusami. Un italiano se non fa lo scontrino del caffè, gli chiudo nel bar! Questi vanno sull'autobus e fanno quello che cazzo vogliono! Scusa, però... si passa più! Dracconeri! Rotto i coglioni! Ma che c'entriamo noi, scusa? Allora, l'Italia viene la gente per bene! Se no i muslimi vanno a casa loro, hanno rotto i coglioni. Scusami, ma secondo dipende, è solo peggio. Ma che c'entra? Scusa, la signora Chieng, innanzitutto buzzicona gli hai detto, no, lasciamo. Il congolese era capo branco. Ma come capo branco? Che vuol dire capo branco? La Repubblica del Congo. Quello là che ha superato. Ma che vuol dire? È come dire? È congolese. E allora? Siccome l'abitante del Congo che è venuto in Italia rifugiato ha tutte le carte in regola, ma fa il capo branco di uno stupro. Io vorrei vedere se succedesse a vostra figlia. Ma che c'entra la Chieng? Scusami, Bracconè, allora però voglio capire una cosa. Dimmi un attimo, cosa c'entra il fatto che questo è congolese col fatto che la Chieng è congolese? È come dire che tutti i tedeschi sono responsabili del nazismo, che ne so. No, sto dicendo. No, era per fare un'assonanza di Repubblica congolese con un abitante del Congo, con la ministra che era congolese. Vuol dire che la ministra ha fatto venire questi abitanti del Congo, ma non li controllano, non gliene frega nulla. Una volta entrati qui, sono stai dicendo che la Chieng è responsabile degli stupri? Stai dicendo una cosa gravissima, come non l'hai detto prima? Io l'ho detto prima. Che il governo non tutela gli italiani. Scusami, Bracconè, io voglio dire una cosa, ma tu hai detto buzzicona alla Chieng? Sì. E perché buzzicona? Che c'ha? È un po' grossa. Perché io non so buzzicone. Appunto, e allora che perché diceva buzzicona? Scusa, non mi pare che sei. Non sei magro, cioè non sei un fuscello, non sei esile. Questo diciamo. Non è per me è un'offesa. Quando uno dice buzzicona, la buzzicona muslime, certo non gli ha voluto fare un complimento la buzzicona muslime. No, infatti non è che io ho voluto fare un complimento, perché a me non me lo dicono. Cosa io rappresento la gente che si è rotta il cazzo. Ma tu non rappresenti nessuno, dai. Ci siamo rotti il cazzo. Tu rappresenti i malati di mente. Quelli rappresenti tu, i malati di mente rappresenti. No, i malati di mente sei tu, che ancora pensi che questi possono essere integrati. Questi devono essere cacciati via. Io te lo dico, questi non passano. Più questi qui, queste persone non devono. Ma che c'entro io? Scusa, che c'entro io? È la rappresentazione dell'Italia! È l'Italia questa, è anche l'Italia! Chiedi scusa alla Chieng, dai, chiedi scusa alla Chieng. Ma chi sa in Europa la Chieng? Ma che me ne frega a me? Ma la Chieng deve chiedere scusa agli italiani. No, è grave però quello che hai detto. Chi se la ingroppa è gravissimo. Chi se la ingroppa è gravissima, è una metafora sessuale. Chi se la ingroppa, amico mio? Chi no, che me frega, chi se la no, con lei proprio non vorrei avere nessun tipo di rapporto. Perché c'ha? Ma dico, scusami, perché? Noi non stiamo, ho capito, stiamo subendo da un governo. Chiedi scusa alla Chieng! Chiedi scusa alla Chieng per quello che hai detto. Minimo, chiedi scusa alla Chieng! Ma chi me ne frega a me la Chieng? La Chieng deve chiedere scusa agli italiani. Ma perché deve chiedere scusa? Il partito l'ha messa lì a fare il ministro. Ma è italiana. È italiana la Chieng. È italiana. Ma chi se ne frega? È sempre incapace. Ma è incapace. Porta rispetto. È un medico, peraltro. È un medico. Ma chi me ne frega? È un medico. Davide dice che dovresti andare come punizione a fare le pulizie nel cesso della Chieng. Che peraltro nel bagno deve andare a fare per un mese. Guarda, io non avrei problemi se ci fosse una persona che ha bisogno di avere il bagno pulito, pulirgli anche il culo, siccome lo faccio per mio figlio che ha 16 anni, che purtroppo non può avere i diritti che ci hanno questi grandissimi zozzoni che vengono in Italia, zozzoni, dove per avere un pulmino dei disabili. Vabbè, quello che c'entra, dai, tutti i giorni e fare un culo così, mentre questi arrivano e ci hanno tutti i cazzi sistemati. Ma che adesso non stai, sta bene. Tu stai dicendo mi nessun sono diritto per i coglioni di questo governo. Ma... di questo essere trattati come delle merde da un governo non eletto da nessuno. Vabbè, Bracone, ciao, te saluto, ciao, ciao, ciao. Ciao. Niente, mi sei che fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Ezebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Mia moglie mi obbliga a lavarmi tutti i giorni. La cosa più insopportabile è che per le 5-6 ore successive, grattandomi le palle e controllando l'olezzo, senti profumo di bagno schiuma. Nah. Ma che ne dicano i ferventi cattolici, una ricerca scientifica ha dimostrato che una masturbazione quotidiana riduce il rischio di tumore alla prostata del 30% rispetto a chi non si masturba o lo fa molto raramente. Quindi boh, poi vedete voi. Luciani, ho 53 anni, mi sono sempre fatto le pugnette e ancora me le faccio tra una scopata e l'altra. È bellissimo, altro che la droga. Viva la pugnetta! Beh, siamo al top. Allora io direi di andare a Brescia da Alessandro, vai Alessandro. Ciao. Dimmi. Ascolta, volevo dirti, quando eravamo ragazzini, sì, noi ci mettevamo in una posizione, vabbè te lo dico, pecorina, sì, ci allargavamo le chiappe, sì, inspiravamo col, sì, sedere. Mai fatto io, mai fatto. No, te lo mai consiglio, fatto. No, è una mai pratica fatto. Interessante. Ah, capito, amico mio, cioè io nemmeno quando ero ragazzino ho fatto queste cose, ma va bene tutto, non lo sto condannando. Magari le fai adesso. Non credo proprio. Comunque, qual è la posizione esatta? Ti mettevi a pecorina poi? Pecorina, allarghi le chiappe, inspiri con l'ano e venivano certe scoregge. Ma non c'è bisogno. Ma le cose devono essere naturali, non devono essere artificiali, non devono essere, cioè non devono essere provocate, non devono essere finte, non devono essere artificiose, deve essere, sì, tutto naturale, che... cioè deve venire naturale. Poi uno può anche sforzarsi a un certo punto di fare dei peti, sì, di fare delle scoregge, però addirittura mettersi in una posizione per cui possono venire, no, quello no, quello francamente no. Però ti assicuro che, visto che è una bellissima cosa fare dei peti rumorosi e non sempre li puoi fare, allora se tu lo fai in maniera artificiale ti dà anche un po' di soddisfazione, pure quello, no? Ma non lo so, no, a me non dà nessuna soddisfazione farlo in maniera artificiale, mi viene naturale, naturale, sic et simpliciter, senza tante commedie, senza tanta preparazione, posizioni da prendere, eccetera, eccetera, naturale. Il problema naturale è che non puzzavano, però così, era proprio una cosa... capito, quando puzzano significa che sono vere, quando non puzzano possono essere finte, non danno è detto... più soddisfazione quando puzzano. Victor, vero? Foggia, vai Victor. Cruciani, ciao, buonasera. Volevo raccontarti al volo un aneddoto di circa 10 anni fa. Qual è la Avevamo affittato casa in quattro, lavoravamo, sì, al mare come bagnini. Sì, sì. Al che il più grande di tutti noi ci riunì la prima sera, sì, siamo tutti intorno lì, a cena, sì, e ci disse: ragazzi, prima regola del... se doveste fare un peto, state attenti a da quanto tempo avete defecato. Perché? Se avete defecato da poco potete emettere peti a volontà perché non puzzano, mentre se siete un po' costipati è assolutamente vietato petare. Questo permetterebbe anche magari alla maggioranza silenziosa di poter emettere peti in pubblico, in quanto diciamo... Ma lo sai che non ho capito, cioè puoi ricapitolare un attimo la situazione? Sì. Qual è la storia? Spiegami. Allora, tu se hai mangiato, se hai stato da poco, puoi emettere peti in libertà anche vicino ai tuoi cari, vicino ai tuoi amici, perché se ne accorgerai in quanto non puzzano. questa era la teoria del nostro... Cioè, se fatte quando hai appena finito di mangiare, va bene? No. Allora, se hai appena defecato... Ah, se hai appena defecato, ok. Sì. Puoi farle, perché non puzzano. Ma questa è la tua teoria. Cioè, da dove viene questa teoria? Sì. Non ho capito. Questa teoria è stata proprio perché questo nostro amico con il quale convivevamo ci ha imposto questa regola. Se non avete cagato, non potete scorreggiare. Cioè, puoi scorreggiare solamente quando hai cagato? Esatto, perché non puzza, secondo lui. Questa qua è una cazzata, ma chi è che... Cioè, dov'è la prova di questa cosa? Hai provato anche tu? Sì, no, infatti quell'estate andò molto bene, siamo ancora amici, insomma. Allora, dovete sapere, ragazzi, da quando ho detto questa cosa mia di quest'estate, eccetera, cioè di quello che ho capito, mi sta chiamando un tizio, mi sta mandando dei messaggi, sono membro del gruppo WhatsApp Farting Hard, scorreggiare forte, 4000 file di peti, record mio personale 32 secondi, possiamo unirvi al gruppo? Ma per carità, ma naturalmente, puoi tranquillamente unirci al gruppo. E mi sta mandando dei file di scoregge, lui dice essere tutte vere, cioè non finte, non pernacchie, non cose finte, ma naturalmente la prova non ce la possiamo avere, come facciamo? L'unica prova potrebbe essere il video, eccetera, di cui alcune incredibili, cioè di una lunghezza 30 secondi continui, una cosa pazzesca. Allora, poco prima che David mollasse baracca e burattini, abbiamo registrato questa intervista con un esponente di Forza Nuova. Come sapete, nei giorni scorsi questi di Forza Nuova hanno fatto un manifesto simile a quello che c'era nel ventennio, in cui facevano vedere un nero che sta per violentare una donna bianca. E c'è in Toscana questo tizio che fra poco di cui sentirete la voce, si chiama Cabras ed è il responsabile di Forza Nuova, movimento di estrema destra accusato di essere neofascista, qualcuno vorrebbe sciogliere il movimento, qualcuno vorrebbe tappare la bocca ai fascisti di Forza Nuova. Io sono contrario perché sono a favore della libertà anche per quello che riguarda gli estremisti. Come si dà parola al Ku Klux Klan in Italia, si deve dare la parola a questi suprematisti bianchi, a questi signori vestiti di bianchi di Forza Nuova in Italia. Ce ne dobbiamo fottere, dobbiamo prendere questa cosa come folklore. Se ci sono dei reati poi verranno perseguiti, alcuni dicono sono reati, sono già manifesti, l'apologia di fascismo eccetera eccetera, intanto nessuno li ha mai provati e questi qua comunque si presentano regolarmente alle elezioni. Quello che sentirete fra poco si chiama Cabras, il signor Cabras. E di fronte all'iniziativa ridicola, secondo me, del presidente della regione toscana di istituire un osservatorio sul fascismo, cioè vorrebbe monitorare i fascisti in giro per la Toscana e magari denunciarli, iniziativa patetica, ridicola, una spesa di soldi pubblici inutile, ha pubblicato uno striscione, non so se su internet oppure uno striscione vero, dal titolo monitora sto cazzo, cioè monitoraci sto cazzo, il signor Cabras, neofascista dichiarato, denunciatelo, Cabras, io e Parenzo pochi minuti fa. Sì, pronto? Cabras? Sì. Sono Cruciani, come stai? Eccoci. Tutto bene. Andiamo molto bene. Allora, io voglio capire una cosa. Altre conquiste. Altre conquiste di che avete conquistato? La Grecia, che avete conquistato? I giornali. La Grecia non andò benissimo in Grecia, mi ricordo. Ai tempi, ma no? I giornali stanno iniziando a parlare di una Toscana nera addirittura. Toscana nera, amico mio. Sì. Parenzo, la Toscana nera. Si chiama questo, no? Cioè sarebbe Capras, no? Ma che è Parenzo quello lì? È Parenzo, sì, è Parenzo. Caro Parenzo. Allora, io voglio dire una cosa. Tu hai risposto a un'iniziativa per me all'assurda, per carità, da questo punto di vista posso anche concordare con voi, che è quella dell'osservatorio antifascista della regione toscana, no? Giustissimo l'osservatorio. Sì. Una cosa patetica, ridicolo. Mi pare che ce ne sia bisogno. Uno spreco, un inutile spreco di quattrini pubblici, diciamo. Un inutile spreco, per monitorare il nulla. Cioè per monitorare... Ma mi pare che ci sia da monitorare molto. Ma non c'è bisogno, lo dice lui che è fascista direttamente. Allora, infatti io dico arrestatelo, cioè non è che c'è molto da girarci intorno. Scusami Cabras, quell'osservatorio osserva tutti, noi semplicemente abbiamo detto come un organo antipopolare, noi siamo parte del popolo, anzi siamo avanguardia del popolo, abbiamo detto appunto cosa? Caro Rossi osservaci sta minchia, ecco. Sì, vabbè. Avanguardia del popolo, adesso non usiamo questi slogan, che vuol dire? Sì, ma sì, lo siamo, lo sapete. Ma non siamo, non organizzate, non rappresentate nessuno, rappresentate la vostra percentuale di elettori, la percentuale bassa di elettori. Non avete idea di quanta gente ci sta contattando. Ma quello si vede sempre alle elezioni. E questa forse sarà la 45esima chiamata che ricevo oggi. Ovviamente devo avere paura praticamente. Sicuramente l'aria sta cambiando e lo sapete benissimo. Ma che c'entra? Paura. Cioè gli ebrei devono avere paura, non ho capito. No, noi semplicemente puntiamo alla ricostruzione nazionale. C'è posto nella vostra ricostruzione, le vostre idee, eccetera, per persone che professano la religione ebraica? C'è posto, sì o no? Perché? Ah sì, nel senso non sono ammiranza. Parenzo, puoi essere tranquillo, puoi stare tranquillo. Tranquillo, caro Davide. Però io voglio dire una cosa, Capra. Tutti... mandate per cortesia un'ambulanza, oltre che le forze dell'ordine, mi auguro. Scusami, Capra, però... no, raccontiamo a chi ci ascolta la Zanzara, chi torna ad ascoltare questa orribile questa trasmissione, che non capisco perché ancora sia in onda, ma non importa, insomma, nuova stagione, poco male. Ma ricordiamo che questo signore qui è quello che ha minacciato pure il prete di Pistoia, cioè, e di questo stiamo parlando. Non abbiamo minacciato nessuno, abbiamo usato il termine vigilare. Fammi parlare. Allora, abbiamo usato il termine vigilare, non abbiamo minacciato nessuno. Vigilare significa essere attenti e l'abbiamo dimostrato perché non abbiamo fatto. Non hanno fatto violenza, dai, su, non hanno fatto. Siamo entrati nella porta principale, tagliando la massa di antifascisti raccattati dai centri sociali, e poi siamo usciti dalla. Ma per voi è normale? No, ma per me non è normale, ma non mi interessa. Proprio per dimostrare che non ci interessava creare del casino. Tu ti dichiari fascista apertamente? No, ti dichiari apertamente fascista, mi sembra. Io sono un forza novista, sicuramente non rinnego il fascismo è stato sicuramente una gran cosa in Italia, anzi è quello che ha riportato la nazione adesso nella potenza mondiale. Cioè sei orgoglioso di essere fascista? Cioè, se mi danno del fascista di certo non mi offendo, anzi. Tutt'altro, cioè per te Mussolini è stato un grandissimo statista. Mussolini è sicuramente il mio primo riferimento politico. Primo riferimento, cioè dovrebbe... Ma questa persona può parlare tranquillo, io vi chiedo, può parlare tranquillamente? Ma sì, ma ragazzi, ma siamo a livelli di folklore. Mussolini, questa cosa qua di Mussolini, cioè lo pensano milioni di persone in Italia, come ho già detto, anche più volte, penso che sia un esempio veramente lampante. Fare le se io di chiedo dove è la tomba di Togliatti, nessuno me lo sa indicare, se io chiedo dove sta la tomba di Mussolini, tutti quanti sanno dove è Predappio, quindi ma che c'entra? Ti l'anima in pace, David, perché è così, è un ma che c'entra? Pasto, ma cosa c'entra? Ma c'entra, invece c'entra, perché gli esempi... Ma tu stai dicendo che dovrebbe tornare, zio Mussolini, scusami. No, Mussolini non ritorna, nel senso, Mussolini... Beh, un dittatore ci vorrebbe, un bel dittatore ci vorrebbe, diciamo, secondo te. Anche Cesare era un dittatore. Ma ho capito, ragazzi, ma la dittatura è la dittatura, ma però dittatura, no? Ma non puoi parlare, ti metterebbero in galera, te! Ti metterebbero in galera! Sto parlando di dittature. Il signore, sai, si sta, che non voglio neanche dargli un nome alla Capra. Capras. Sì. Non lo so come si chiama. Tu l'hai chiamato Capras. Non lo so come si chiama. Ma sì, ma tanto questo al massimo possono insultare, possono deridere, ma poi noi vinceremo. Prima la gente viene derisa. Poi viene combattuta e poi non essere fascista. Io dico che nel nostro paese un signore che rivendica di essere fascista e fa propaganda per questo dovrebbe semplicemente essere arrestato. Ma no, ma non è così, dai. Non è così. Ma bella la democrazia, ma che bella la democrazia. Scusa, vedi? Scusami. La democrazia è senso unico, non si può parlare, allora va bene, gli altri stanno scusami, solo Cabras, io dico una cosa, ma c'è spazio per la vostra idea per i gay? Allora, noi sicuramente siamo contro alla quella che oggi è la propaganda omosessualista. Sono normali secondo te? Allora, se io dico semplicemente questo, se tutti quanti fossimo gay, anzi omosessuali, perché anche gay è un termine propagandistico, perché vuol dire che sono felici, perché questo vuol dire, certo vuol dire che felice, siamo tristi, quindi sono omosessuali, se tutti quanti fossimo omosessuali, l'umanità esisterebbe di esistere, quindi evidentemente c'è qualcosa di normale, è un dato di fatto anche questo. Secondo te sono anormali praticamente, sono anormali. Allora, è un dato di fatto che se tutti quanti fossimo omosessuali, ma quello è come dire se finisse a un certo punto l'acqua, tutti moriremmo di sede. Ho capito, d'accordo, però che vuol dire? Allora è così. Ma se a due piace incularsi, qual è il problema, Cabras? Allora, a me personalmente non me ne frega nulla. Chiaramente non ci può essere un'equiparazione a livello, diciamo, di leggi. L'unico matrimonio è quello tra un uomo e una donna, stop, ovviamente non ce ne stanno altri. Dunque bisogna anche limitare, è la natura che l'ha decretato, no? È così, bisogna è anche fatto, limitare punto. La propaganda, come fanno i russi, la propaganda gay, la famosa assolutamente, perché che bisogna fare la galera, può essere pericolosa, può anche deviare le menti dei bambini, come fanno con la propaganda gender. La propaganda gay va limitata. Che vuol dire la propaganda gay va limitata? Ma lo fanno nelle scuole, parlano di gender, tutte queste cose qua, non è propaganda. Ma secondo voi non fanno propaganda? Loro non fanno propaganda. E che bisogna fare? Anche se ci fosse questa propaganda, bisogna bloccarla, bisogna limitare le persone che parlano in televisione, meno gay in televisione. Sicuramente, per esempio, non bisognerebbe diffondere la teoria gender, non ci dovrebbero essere queste cose nelle scuole, non dovrebbero fare queste. Ma non ha diffuso il fascismo! Va bene. Scusi, signor Cabras, in questa trasmissione mi sembra veramente alle volte di dire delle cose talmente ovvie, però qua sembrano delle cose pazzesche. Cioè, si assiste all'elogio del neofascismo e dall'altra parte, quando provo a dire che c'è una legge devo elogiare il comunismo, vuoi che elogio il comunismo, così sei più contento, ma perché non posso elogiare qualcosa che è stato italiano e di cui molti italiani hanno nostalgia? È un dato di fatto, non me le invento io queste cose. Cabras, ti saluto, fatti arrestare da Rossi, fai una bella canzone fascista, fai giovinezza, così dagli sicuramente noi siamo giovinezza, siamo 20, no, fai. Quando faccia 20 anni siamo nel pieno della giovinezza, vai Faccettane, fai una bella canzone fascista, lo devi far arrestare. Tra l'altro comunque Faccetta Nera non ci piace molto, c'era anche la canzone Faccetta Bianca. Ciao. Giovanni dalla provincia di Catania, vai Giovanni, vai. Pronto? Dimmi Giovanni, dimmi. Sì, in merito ai fatti di Rimini. Allora? Posso che è stato detto tutto? Sì, tutto, ormai tutto è stato detto, tutto. Beh, di tutto. Di tutto da tutti, sì. Allora, io per quanto riguarda la documentazione che ho io... La documentazione che tu... perché chi sei tu? Statistiche Istat. Sì, Istat, allora? La nazionalità di stranieri più incline allo stupro in Italia sono i marocchini e i rumeni. Vabbè, allora? Allora, questa cosa non vuol dire assolutamente nulla, per un semplice motivo. I 99 stupri su 100 in Italia avvengono all'interno della cerchia relazionale di una persona. Sì, ma noi stiamo parlando di un'altra cosa, non c'entra niente. Mi fai finire un attimo? Allora? Sì, allora 99 stupri su 100 in Italia avvengono all'interno di un rapporto relazionale, quindi lo stabilire, il preoccuparsi della stuprosità, scusami questo neologismo, degli stranieri è assolutamente inutile. Vabbè, poi? No, è tutto qui. Tutto state qui. Parlando, state dicendo che praticamente gli stranieri sono più violenti. Ma ci sono delle statistiche, non è che sono di per sé. Ma più hai violenti. Capito quello che ho detto? Sì, l'ho allora, capito. Anche cosa se c'entra? Tu qua in Italia dici che ci sono praticamente le peggio persone dal Marocco. Io non ho detto questo, Romania. Non ho detto questo. No, ma credo che vabbè. Aspetta un attimo, non complicare troppo le cose. C'è il mondo dei peti che è in ebollizione. Il mondo dei peti è in ebollizione. Ci stanno mandando delle cose che io non so se siano peti veri e propri o no. Però il fatto che ho detto questa cosa della flatulenza, di questo problema che ho e anche di questa gioia nel regalare odori, olezzi, ha acceso un mondo, ha scoperto un mondo. Questo, a domani. Voi